Tutto è pronto. Possiamo partire. Buongiorno a tutti. Sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. No, così. Mi piace dirlo. Gestito dalla politica. Non è una mezza verità. Non vende porta a porta una triste plasticità. Non è gestito dalla cultura del come dovrebbe essere. Non è gestito dalla cultura del lieto fine. È una passeggiata. È un suono puro. È il pensiero del com'è. E ogni giorno c'è. Cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, ogni giorno ti scassa un pochino. Dai un poco sta cassa. Se volete mandare le vostre dediche, mandatemi il vostro SMS al numero 333-64-67-662. Dai una mezzata, vai G. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Stefania da Vicenza. Amo la tua musica. Sei grande, ma amo anche Alessandro. Voce del verbo e saluto e vedo. Voce del verbo e saluto e vedo. E saluto e vedo. Voce del verbo e vedo. E vedo. E saluto e vedo. Voce del verbo e saluto e vedo. E saluto e vedo. Voce del verbo e vedo. Verbo e saluto e te vendo te vedo. E saluto e vendo te vedo. Voce del verbo e te vedo. Perfettamente.

Andrea da Udine. Vorrei dedicare una canzone lenta ma violenta a Massimo, che è in ospedale, dicendogli di guarire presto. Gigi, la tua musica ci fa volare ogni giorno. Un bacio. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente. De che cazzo habla? Alla contingenza è un processo che evolve in Sera, sabato 12 maggio 2007 e domenica pomeriggio 13 maggio 2007, grande raduno lento violento del Nord Italia. Gigi D'Agostino suona alla discoteca La Fattoria. La Fattoria. Capriolo. Brescia. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Musica allo stato puro. di Gigi D'Agostino. D'Agostino. Ehi, hey, ciao Gigi, sono Jessica 89 di Bisuschio. In questo periodo sono molto triste perché mi piace un ragazzo che preferisce stare con i suoi amici piuttosto che con me. Si chiama Davide. Mi potresti dedicare Please Don't Cry, per favore? Ovvio. momento della dolcezza. Questi sono i paesaggi meravigliosi che la musica riesce a disegnare intorno a noi. Ogni giorno, di pomeriggio, su M2O, dalle 2 alle 3. Pubblicità è la religione che salva le anime incerte, a patto che la ricerca sia sincera e costante. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo CD e che ovviamente è stupendo. Ti ho scoperto da poco e devo dire grazie a mia figlia, che di anni ne ha 18. Continua a scrivere queste melodiose canzoni. Ok. Spero che nella tua vita reale la tua musica ti rispecchi. Roby. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Mi puoi suonare Trinità e dedicarla a Bibi il postino. Giulie da San Germano Chisone, un paesino nella provincia di Torino. Coltore mix di Equinox 4 di Jean-Michel Jarre ai compagni dell'Excelsior. Dove lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Ora la musica c'è. Sono Giuseppina da Molinara Benevento. Ti ascolto ogni giorno e quando sento la tua musica mi sento meglio. Mi suoni Arcobaleno? Certo. Sono Ale Mel. Sulle note di Arcobaleno Vi dedico questa citazione e buon cammino a tutti. Il mondo è fatto della nostra immaginazione, i nostri occhi lo animano, le nostre mani gli danno la forma. Volere qualcosa lo fa crescere rigoglioso. Il senso è quello che ci metti dentro, non quello che ne estrai. Puoi vedere solo quello che sei propenso a vedere e niente di più. Siamo solo noi che dobbiamo creare il nuovo. Hanif Kureishi, nell'intimità. Se volete scrivermi 333-64-67-662. Sono Luca da Busto Arsizio. Gigi, mi suoni solo in te. Vorrei dedicarla alla ragazza più speciale del mondo, Ilenia. Ti amo tantissimo. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me, una cosa che con te può varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io vissuto sempre con te, che tu quel che ho provato è quello che vedo solo in te. Con te. Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Volevo dedicare Star a Claudia, che non sta vivendo un bel periodo, e dirle che le sono vicino. Sarai sempre la mia stella. Salvo da Grugliasco. Per me amore a Daniele Di Collegno, per ringraziarlo dei bellissimi momenti che mi ha regalato, anche se le nostre strade si sono dovute dividere. Non ho mai smesso di pensare a lui e di amarlo. Un bacio, Eli. Volevo dedicare Per me amore a Simone, un ragazzo che ho conosciuto a Natale e che fino ad ora mi ha fatto vivere come una principessa. Mi piace guardarti giocare, mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Amore in quelle mani, quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente, quando vorrei dirti tutto quello che siamo da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore. Forse vuol dire sentirsi vivi. Forse vuol capirlo. Forse vuol capirlo. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Ciao Gigi, ascolto tutti i giorni il tuo cammino e mi fa stare bene. Mi faresti sentire again? Grazie, Kate.